Vendo tutto di Matteo Caccia. La Vespa, il frigorifero, il corso di tennis, quello d'arrampicata, il divano, il cellulare, la TV, l'abbonamento a teatro, l'attrezzatura da sci, quella da sub, l'orologio da polso e quello da parete. Tutto. Vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme. Capita, lo so, succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela, la vendita è aperta. Oggi vendo un iPod. Buongiorno a tutti, sono le 16.07. Allora, partiamo subito con un dettaglio direi non insignificante, visto che una mail che è arrivata giusto 20 minuti fa fa parte di un gruppo di mail che si intitola La Sigla. Vi leggo l'ultimo pezzo. Giuseppe Nigro dice: ce l'ho sulla punta della lingua, di chi è quella canzone? Mi sfugge. Allora, Pietro, ti piace? La facciamo risentire al volo? Questo è l'inizio, è quello che viene in mente a tutti. Vendo tutto, è il programma qua. Di Matteo Caccia, che sono esattamente io. Bene, allora, lo dico una, segnatevi, prendetevi carta e penna. Questa canzone si chiama 10 Million Slave. Il musicista che la suona e che la canta, non nella sigla ma nella canzone originale, si chiama Otis Taylor e fa parte della colonna sonora di un paio di film. Adesso però non stiamo a dirvi proprio tutto, altrimenti sì, che facciamo qua? Andate a cercarlo. 16.08, Radio 24. Oggi sono arrivato in redazione e ho trovato il genovesi con una giacchetta nuova. Ovviamente lui è uno stile, è l'unico diciamo che non sfigura qua nella sede del Sole del 24 Ore. Anche, devo dire che anche chiaramente Bonini quando vuole è vestito bene, Lauretta è sempre impeccabile, gli altri invece sembrano degli scappadacà, come dice mia nonna, rispetto a quelli in giacca e cravatta tutti qui presenti. Ma non è di questo che vogliamo parlare, ma della giacchetta del genovesi che oggi è arrivato e ha detto: mi sono fatto un regalo. Sembra un caso, d'altra parte il destino spesso ci guarda con sguardo favorevole, perché oggi si parla di un oggetto che io ho comprato nel 2004, quindi almeno 6 anni fa. Nel 2004 è un oggetto che appartiene proprio a questa categoria, alla categoria degli autoregali. È un iPod l'oggetto che vendo oggi. Anche Lauretta prima mi diceva che lei si è fatta un autoregalo recentemente, che è un rossetto rosso, mi pare, giusto? Il motivo però non me l'ha spiegato. Quindi oggi vi racconto di questo iPod, però mi piacerebbe capire da voi, che siete all'ascolto, qual è stato l'ultimo oggetto che vi siete regalati proprio con questa filosofia: oh, oggi mi faccio un regalo. 800240024. Magari anche se qualcuno tipo proprio stamattina o oggi pomeriggio, nel primo pomeriggio, ha detto oggi è proprio la giornata in cui è il caso di farsi un regalo e si è comprato qualcosa, chiama l'800240024 e mi racconta che oggetto è, ovviamente, visto che non so se l'avete capito, ma qui si parla di oggetti, e soprattutto il motivo per cui se l'è comprato, perché i motivi, abbiamo capito, possono essere diversi. Nel mio caso, lo capirete tra un po', era un motivo molto molto chiaro. 800240024. L'iPod lo potete già vedere, ovviamente, radio24.it per sentire la sua storia. Eccoci qua. L'iPod. iPod quarta generazione, colore bianco, retro argentato, display azzurro, fonte dei caratteri stile typewriter, ghiera fissa, soft touch, lunghezza 10 cm, larghezza 6 cm, profondità 1,5 cm, peso 140 grammi, memoria 20 giga, capacità 5.000 brani, anno 2004 ma sostituito nuovo in garanzia nel 2006, ottimo per ascoltare la musica. Valore commerciale 40 euro, base d'asta vendo tutto 90 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800240024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Vi è mai successo di dirvi oggi mi faccio un regalo? Di solito capita quando la giornata è andata particolarmente bene e abbiamo ottenuto qualcosa di importante. Oppure dopo uno sforzo che ha portato dei buoni risultati, no? È un po' al contrario dei fioretti, quelli che ci insegnano quando siamo piccoli a catechismo, che sono una rinuncia a qualcosa in nome di qualcos'altro. Ecco, l'autoregalo no, invece è un premio a se stessi, è un po' un premio alle proprie capacità, alla propria tenacia. Personalmente non ho mai frequentato la via dell'autoregalo, cioè l'idea che si debba a tutti i costi avere fatto fatica, avere combattuto, per potersi meritare qualcosa, mi sembra più adatta alla giungla che alla vita di tutti i giorni. Quando da bambino per il mio compleanno gli adulti mi portavano un regalo e prima di darmelo mi chiedevano se me l'ero meritato, io di solito rispondevo con: perché scusa, se non me lo sono meritato cosa fai, non me lo dai? Preferisco pensare che una cosa che mi piace, se me la posso permettere, la posso prendere senza un vero motivo, senza una giustificazione, per il semplice fatto che la voglio prendere. L'oggetto che vendo oggi, questo iPod, me lo sono preso proprio così, senza una vera ragione, senza essermelo moralmente guadagnato. Al contrario, l'ho comprato alla fine di una brutta giornata nell'estate del 2004. A quel tempo non ne sapevo nulla, né di vendere tutto, e tantomeno di Giulia. Mi trovavo in un albergo sopra le colline di Trento. Ho lavorato lì per 2 estati e quel giorno avevo saputo che il lavoro non sarebbe stato riconfermato, che quelli sarebbero stati gli ultimi giorni. Era un lavoro che mi piaceva e con lui perdevo anche le persone con cui avevo lavorato e con cui mi ero trovato bene durante quei mesi. Vedete, la storia che ogni fine è sempre un nuovo inizio è buona da dire se la dice a qualcun altro, se non sei tu quello che chiude un'esperienza, se non sei tu ad essere obbligato a cambiare abitudini o a iniziare da capo, da un'altra parte, con altre persone. Insomma, quel giorno non ero in splendida forma. Ho mangiato qualcosa nel ristorante dell'albergo e sono salito in camera mia. Nella stanza c'era un grande silenzio e io volevo sentire un po' di musica. Volevo riempirmi la testa di ritmo per distrarmi, per non pensare alle cose che non andavano. Ho fatto partire un po' di musica dal computer e poi mi sono connesso ad internet per scaricare la posta. E così, tanto per fare qualcosa, ho aperto Google e ho digitato lettore MP3. E sullo schermo del computer è apparso questo. And we are introducing a product today that takes us exactly there, and that product is called iPod. What is iPod? iPod is an MP3 music player. Il signore che sta parlando si chiama Steve Jobs ed è il fondatore dell'azienda con la mela morsicata. Quello che sta dicendo è che ha inventato un lettore musicale grande quanto un mazzo di carte da gioco che contiene migliaia di canzoni. La forma era bellissima, l'idea era accattivante. E un tasto proprio lì sul mio computer mi diceva: compralo adesso. Io ho pensato che quello era il regalo perfetto da farmi subito, in quel momento, alla fine di una giornata in cui sembrava che non potessi sempre avere tutto ciò che volevo. I saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. You get what you need. L'ho aspettato per una settimana. Era il mio primo acquisto online. Ho compilato il modulo sul sito, ho dato l'indirizzo dell'albergo, ho inserito i dati della carta di credito e grazie per aver acquistato un nostro prodotto. Le verrà consegnato prima possibile. La prima volta che si compra qualcosa senza vederlo, senza toccarlo, ma soprattutto senza metterlo in una busta e portarselo a casa, si vive una strana ansia. È una cosa che sta a metà strada tra l'attesa dell'apertura dei pacchi alla mattina di Natale e la paura di essere stato fregato, visto che in fondo hai scritto i dati della tua carta di credito su un sito che, per quanto bello e fatto bene, potrebbe sempre essere una gigantesca truffa. Dopo una settimana, mentre mi lavavo i denti, mi ha chiamato la signora della reception dicendo che era arrivato un pacco per me. Sulla busta che conteneva il pacco c'erano appiccicate un sacco di etichette, tutte prestampate, dalle quali si capiva che la spedizione era stata divisa in 2 parti. L'ultima era da una città olandese fino a Trento, ma la prima era dalla California all'Europa. Il luogo esatto di partenza era una cittadina che si chiama Cupertino. Io ho tenuto il pacco in mano senza aprirlo, pensando a quanti mezzi di trasporto aveva preso questo pacco prima di arrivare fino a me. E poi ero sollevato dal fatto che non mi ero fatto fregare i soldi da qualche hacker nascosto chissà dove, ma che anzi, ora potevo andare in giro con aria sicura e dire a tutti i miei amici frasi tipo: scusa, non hai ancora comprato niente su internet? Ma dai, è così facile, scusa. L'iPod è un oggetto bellissimo e questo, nonostante gli anni passati, continua ad esserlo. Ecco, quel giorno me lo sono rigirato tra le mani per circa 1 ora. Un po' perché lo trovavo meraviglioso e un po' perché non avevo assolutamente idea di come ci avrei infilato della musica lì dentro. L'ho usato ininterrottamente per 2 anni. Mi sembrava bello, inseparabile e indistruttibile. Tutto fino a che un giorno il display azzurro si è bloccato e non ha più dato segni di vita. Io ho aspettato un po', ho chiesto a qualche amico esperto e poi ho fatto l'unica cosa da fare in questi casi. Servizio clienti, buongiorno, sono Stefano. Come posso aiutarla? Sì, buongiorno Stefano. Senta, il mio iPod, che voi sostenete essere così perfetto, non funziona più. Di che anno è? È del luglio 2004. Bene, nessun problema. Lo porti dal rivenditore più vicino e glielo sostituiamo. In che senso, scusi? Nel senso che in garanzia. Gliene diamo uno nuovo. La garanzia. In pochi giorni avevo un iPod nuovo di zecca. Che poi è quello che vendo oggi. Certo che è strana questa cosa della garanzia, eh? Cioè, è come se loro avessero sempre pronto, a disposizione, un doppione del prodotto che hai comprato. Così, gratis, a fondo perso. Mi verrebbe da dire che per così tanto, quando compriamo un prodotto in garanzia, potremmo rinunciare alla garanzia e farcene dare subito due al prezzo di uno. In modo che siamo pronti noi stessi a sostituirlo, no? Se si guasta. Ma torniamo al mio iPod, quello che vendo oggi. Inutile dire che insieme all'iPod vi portate via la musica che c'è dentro. Ci sono oltre 4.000 brani. Tutti quelli che ho ascoltato negli ultimi 5 anni. Vi farai anche l'elenco adesso, però non mi sembra il caso. Facciamo così. Ti faccio giusto sentire qualcosa al volo, un assaggio. Questo. Questo lo conoscete. Sentiamo un'altra. Questa è buona. Aspetta, un'altra ancora. Ok. Questa ci porta un po' giù. Sentiamone un'altra. Questa è buona, eccola qua. Ecco perché nonostante tutto, nonostante la garanzia, nonostante l'autoregalo e le 4.000 canzoni, questo iPod è in vendita. Il suo valore sul mercato è 40 euro, la base d'asta 90 centesimi. Radio24.it per vederlo. Per i vostri autoregali, 800 24 0024. I had to leave you and go away, but I think about you every day. In the morning and in the afternoon. I wish that I could see you soon. And when I held you, I felt so fine. It was like there was nothing left on my mind. It was like Rockaway Beach in the month of June. I wish that I could see you soon. I had no plans to meet you, baby. I had a million things to do, baby. But you hit my heart with a harpoon. I wish that I could see you soon. The angels go, how long till you can see her? And I'm like, the sooner the better. Do you really think she will wait for you? Well, I have no way to say, and there's nothing I can do. Well, I have no way to say, and there's nothing I can do. Go. Across the sea, 16 e 19 minuti, questa è Radio 24, 349-238-6666. Mi scrive un anonimo, ma quando hai venduto tutto, te ne vai davvero? Che sembra un po' un invito o una speranza. E poi mi scrive soprattutto, non si firma, ciao, io mi sono regalato una Monster 6,95 perché non trovo lavoro, però appena lo trovo sono moto munito. Questo mi sembra un'ottima occasione. 800 24 00 24. Io mi aspettavo grandi soddisfazioni dalle donne e infatti so che stanno per arrivare. Tiziana da Bologna. Pronto Tiziana? Ciao. Ciao, come stai? Tutto a posto? Tutto a posto, grazie. Brava, quando è che ti sei fatta l'ultimo autoregalo? Mi sono autoregalata un paio di scarpe costosissime. Eccola qui, la volevo! Le scarpe delle donne! Quando le hai comprate? Alcuni anni fa, una primavera, anzi a fine febbraio, quindi smettevano i saldi, iniziavano le vetrine nuove. Quel giorno un mio collega e anche amico ha cambiato lavoro ed è andato via dall'azienda dove lavoravo io. Uh-huh. Mi sono sentita solissima perché era proprio, sapevo che sarebbe andato via, sapevo tutto, però quel giorno lì è stato bruttissimo. Mi sono comprata queste scarpe costose oltre ogni misura. Eh beh, facci, dici la cifra però. Potevano essere 300 euro. Ma... E che dietro si sono portate dietro la necessità di avere un vestito adeguato perché non erano adatte a niente che possedessi. È anche un'occasione mondana magari adatta, Tiziana. Cioè, no, tipo una cena al ristorante. No, io penso che quelle scarpe le ho usate due volte e quindi mi sono costate 150 euro a volta. Ah, ok, ok. Più il vestito. Dai, facciamo così quindi, che il collega che si è licenziato ti ha fatto spendere questi 600 euro, va? Esatto. Tiziana, esatto. Grazie mille. Ciao, grazie, buona giornata. Ciao. Andiamo a Roma con Fabrizio. Pronto Fabrizio? Pronto. Ciao, eccoti qua. Tutto a posto? Ciao. Non, tutto è, bene, non tutto è per bene. Te, vero, la sirena? No, sono qui fermo a San Lorenzo, ma okay. È sempre traffico romano. Ok, ma sei in auto quindi? No, sono in scooter. E scusa, com'è che sentivi il programma? Sempre con la radio. la radio collegata al telefonino, sempre, grande invenzione. Ah, ok, quindi ma si può andare in scooter con gli auricolari? Ma anche no. Chi se ne frega, Fabrizio, dimmi invece qual è l'autoregalo che ti sei fatto. Io, grande patito di fantascienza, mi sono autoregalato un modellino di un'astronave di una serie televisiva degli anni 70, Spazio 1999, e preso così da un momento di malinconia ho deciso di regalarmi quello che non ero riuscito a farmi quando ero giovane, insomma piccolo. Senti, ma si può dire perché il momento di malinconia oppure no? Ma sempre, quando finisce un anno, inizia uno nuovo, c'è sempre quei 3-4 giorni in cui sono un po' più malinconico. Ah, strano. Okay. Forse è l'anno che si chiude, il nuovo anno, che insomma, gli anni che passano. Ce l'hai ancora, dai. Ce l'hai ancora il modellino? Ce l'ho sempre, ce l'ho ancora chiuso nella confezione. Bravissimo, addirittura! Sì, perché se poi lo tiro fuori non è più un autoregalo, cioè comincia a essere usato, e questa è la psicologia. Okay. Dopo diventa una cosa usata, non è più nuova. Cioè, quindi è un regalo fino a che rimane nel pacco. Esattamente, cioè, è esposto in salone, è bellissimo, ma non lo tirerò mai fuori dalla scatoletta, insomma. Va bene. È in bella vista. Va bene. Fabrizio, ti ringrazio, puoi continuare ad ascoltare sullo scooter. Ciao Fabrizio. Ciao, buona serata a tutti. 349-238-6666. Ciao Matteo, io mi sono autoregalato una macchina nuova dopo aver conquistato in 6 mesi un contratto a tempo indeterminato. Ciao da Will, e bravo Will. Andiamo a Bergamo invece con Pierino. Pronto Pierino? Ciao. Ciao, ma Pierino è proprio il tuo nome o è un nome d'arte? Sì, perché non vuoi farti riconoscere? Sono uno dei pochi Pierini rimasti in circolazione. Cioè, nel senso che non è nemmeno Piero? No, è proprio Pierino. È proprio Pierino? Sì, e tu quanto sei alto? Noi 1,72. Ah, ok. Non sono Alvaro. Okay. No, ok, perfetto. Fino a lì lo immaginavo, per la voce l'avremmo riconosciuta. Che cosa ti sei regalato, Pierino? Allora, ti devo raccontare una mini cronologia prima, no? Vai, cioè, mini cronologia. Sì, nel senso che io avevo un TV vecchio. Mm-hmm. E finalmente mi sono fatto il sogno della famiglia, di tutti, no? Di comprarci sto digitale, sto LCD, no? Ah, ok, quello piatto. Quello piatto, così, sì. Ho preso un 32 pollici perché noi non siamo di grandezze così, tanto per avere lì, è perché poi siamo appassionati. Però giustamente di là da vetro mi dicono 32 pollici non è proprio piccolissimo, Pierino. No, sì, ho capito, però rispetto a quelli rispetto che ai 50, quando okay. Vado a vedere nei supermercati, nei sì. Grandi magazzini, ce n'è più grossi, ce n'è più grossi. Lo so, però 50 pollici. Non ti chiameresti Pierino mica per niente, no? Ecco. Allora cosa succede? Che io naturalmente, siccome sono un appassionato dell'hi-fi, della musica, mm-hmm. Mi piace sentire il grande cinema, poi anche quando sono le partite belle così, no? Sì. Ho detto, mi compro ste casse per il TV, però dico a mia moglie che sono per il PC, per il computer, no? E ho provato a collegarle, ma non me le ha fatte togliere subito perché fa troppo casino. Cioè, ok, quindi tu hai cercato di fregarla, ma l'ha fregato lei, evidentemente. Sì, praticamente queste casse qui sono ancora sigillate. Beh, però le userò un giorno. Secondo l'ascoltatore di prima, il regalo è regalo fino a che rimane sigillato. Pierino, ti ringrazio. Prego, ciao. Ciao, buona giornata. Intanto 349-238-6666, mi sono regalata una borsa come consolazione di un periodo non felice e dove, come dici tu, sto combattendo. Almeno questo me lo merito. Brava Silvana da Vicenza. Invece andiamo a Brescia da Armando. Pronto Armando? Ciao. Ciao, benvenuto. Cos'è che ti sei regalato, Armando? Mi sono regalato una bellissima canna da pesca. Oh, perché tu sei un pescatore. Sono un pescatore, ma più per divertimento, non appassionato proprio. Senti, però mi piacciono poi gli oggetti. E adesso ti faccio una di quelle domande proprio da inesperto. Tu cosa fai? Tipo alla mosca oppure col mulinello? Sì, diciamo tipo la mosca. La mosca sarà una prossima frontiera. La mosca sarà, perdonami, la prossima? Una frontiera che varcherò fra qualche anno. Bravo, senti, perché te la sei regalata sta canna da pesca? Perché è un periodo che va tutto male, proprio, proprio più male di così non poteva andare, e allora mi preparo per l'apertura della pesca alla trota e sperando cioè, di riuscire un po' a rilassarmi. Ci stiamo preparando tutti per l'apertura della pesca alla trota. Scusami, l'ultima cosa, quanto ti è costato questo autoregalo? Tantissimo, 1200 euro. Ah, hai capito la canna da pesca. Grazie Armando, in bocca al lupo. Ciao. Visto che molti continuano a chiedermi e visto che i prezzi delle cose su eBay stanno continuando a salire, ma che cosa te ne fai di tutti questi soldi? Ecco che cosa me ne faccio. Fare il bagno nelle terme di Nagano insieme ai macachi. Scalare il Monte Rosa. Attraversare l'Atlantico su una nave cargo. Lanciarmi col paracadute da 6.000 metri. Sposarmi a Las Vegas. Non importa con chi. Giocare una partita a tennis con Nadal e batterlo. Portare a cena fuori Natalie Portman. Fare un viaggio in mongolfiera. spaccare a pallonate tutti i vetri di casa dei miei e poi ricomprarglieli. Imparare a suonare la batteria. Incontrare Obama, Mourinho e il Dalai Lama. Fare un viaggio con la Transiberiana. Vedere una finale del Super Bowl. Vedere il Taj Mahal. Attraversare la foresta amazzonica. Vedere il deserto della Patagonia, quello del Gobi e quello del Nevada. Imparare il cinese. Imparare l'arabo. Prendere il brevetto da pilota e quello da sub. E poi imparare a camminare sul filo. Uno degli ultimi SMS è: io mi sono regalato un telefonino da 700 euro senza ancora mai averlo usato. Da 2 mesi. Ci tengo, ma non lo uso. Sono strano. Franco, fai un po' te, insomma, fai un po' te, anche perché io devo chiudere. Lunedì però si continua a vendere, è la volta della mia cerata da barca. È una cerata completa di giacca e salopette, marca Slam, colore rosso, taglia XL. La cerata con cui ho fatto le mie prime uscite in barca e che mi ha sempre tenuto al caldo e all'asciutto. Io ringrazio Pietro Lacorte, Laura Faggin, Bonini Genovesi e anche Giovanni Ludeno per oggi. Quella di oggi era la storia del mio iPod. Per vederlo e comprarlo, radio24.it. E mi raccomando, visto che c'è un weekend adesso in mezzo, approfittatene, eh? Liberatevi di un po' delle vostre cose che vi stanno nel gobbone, perché alla fine un iPod è solo un iPod.